Sono le ore 12.48 di giovedì 25 aprile 2024. Intanto buon 25 aprile, ce n'è davvero bisogno. E come spesso succede, le cose non vengono mai insieme a caso. Nelle ultime 24 ore mi sono imbattuto in, diciamo, due esperienze. Da un lato sono reduce dalla mostra ambienti 1956-2010 al Maxi, e dall'altro ho letto un articolo di Stefano Chiodi, una recensione piuttosto negativa della Biennale d'Arte di Venezia, da poco inaugurata, curata da Adriano Pedrosa e intitolata quest'anno Stranieri ovunque. E mi sembrano gli estremi di uno spettro di lettura dell'arte contemporanea, del ruolo dell'arte contemporanea, che insieme diciamo stimolano alcune riflessioni. Allora, la Biennale, io sono stato, ancora non sono stato quest'anno a Venezia, dubito che riuscirò ad andare. Ricordo invece l'edizione di 2 anni fa, Il latte dei sogni, che su di me ebbe un effetto positivo, perché così, in questo percorso in cui sempre più chiaramente l'arte contemporanea tende a sostituirsi ai media nella capacità di inscrivere in un riquadro ciò che è rilevante per noi nell'epoca che viviamo, sicuramente ecco, la Biennale ha rivela alcuni meccanismi della formazione di questo riquadro, che sono quasi sempre intermediati dai sistemi di potere politico. Per esempio, nei padiglioni si vede quello che è rilevante, diciamo così, per la narrazione del governo in carica, tipicamente, o quantomeno del governo che era in carica al momento dell'assegnazione dei padiglioni. Però il fatto stesso di poter confrontare diversi riquadri di rilevanza ricreava comunque nel visitatore un caleidoscopio di opzioni, cosa al quale non siamo neanche più abituati, perché è tutto così omologato e omologante che alla fine è sempre uno sguardo rivolto verso il mondo, la Biennale, questo indubbiamente. E dall'altro, questa tendenza crescente verso il messaggio sociale, no? Che è un po' ciò verso cui tutta l'arte contemporanea negli ultimi anni sembra dirigersi o doversi dirigere, perché c'è una bella differenza. Un po', vabbè, ricordiamo le polemiche all'ICOM sulla definizione di museo, quella di Kyoto era particolarmente, diciamo così, ottimista in questa direzione, ed è quella nella quale io mi riconosco. Poi c'è stata la grande marcia indietro più recente a Praga, anche perché poi quella di Kyoto rimase una proposta e non venne mai approvata, e cioè appunto il ruolo sociale del museo, no? mai era stato così profondamente e chiaramente definito. Però appunto io credo che tutta la differenza la faccia diciamo così la libertà dell'artista nel farsi attore sociale, no? Quando invece succede, e mi sembra l'aver capito che a Venezia stia succedendo, che quasi tutti i riquadri dei curatori, degli artisti, rispondono a un preciso requisito, a un preciso adempimento, cioè quello di fare, come dice Stefano Chiodi nel suo articolo, pedagogia etica, ecco, allora a quel punto si passa dall'industria culturale tanto detestata da Adorno e Horkheimer, quella della massificazione, dell'omologazione, si passa all'industria dell'adempimento, che finisce per svuotare di contenuto anche le stesse scelte militanti, magari oneste, di tanti artisti. Ecco, quando invece l'artista, in modo del tutto indipendente da ciò che una certa committenza desidera, se non dobbiamo parlare per forza di mercato, ecco, quando davvero lancia il suo, diciamolo, il suo grido di dolore, la sua denuncia, ma volendo anche la sua indignazione, va benissimo, purché sia la sua, ecco, purché non sia il tentativo di andare incontro ad una necessità di qualcosa che lo sovrasta e che finisce per orientarne le scelte. Ecco, questo è quello che è il pericolo un po' verso cui si sta andando. Io non mi spingo, anche perché non ho i mezzi, fino a dire, come fa Stefano Chiodi, che l'arte non deve essere assolutamente pedagogia etica, ma deve essere soprattutto efficace estetica. Va benissimo, molto bello come finale del suo articolo. Io credo che possa essere entrambe le cose, purché rimanga nel novero delle scelte libere dell'artista. Quando l'artista subisce un rapporto di forza, smette di essere artista, punto. E questa è un po' la sensazione degli ultimi anni. E passiamo invece al maxi. Ecco, il maxi purtroppo ci fa vedere qual è l'alternativa del rinunciare a qualsiasi vocazione sociale del museo. L'alternativa è il Museo dell'Arte Innocua, e la mostra Ambienti alla quale ho assistito sia una delle forme più evidenti di questa deriva, a cui naturalmente la direzione artistica ispirata dall'ultimo governo, il governo Meloni, quindi Giuli, quindi San Giuliano come, diciamo, mandante, e Giuli come esecutore materiale, alla fine che cos'è? È un museo che non ci apre mai gli occhi su nessuna urgenza della società, su nessuna necessità, e ricostruisce esperienze che però è sempre qualcosa di profondamente normativo, no? Quando appunto ti metti nelle mani di qualcuno che elabora un'esperienza, e infatti poi alla fine a che cosa somiglia il Maxi di oggi? Somiglia molto a quelle mostre, anche belle, no? Che si vedono alle Scuderie del Quirinale o al distretto Prati Bus District, credo si chiami così, no? Dove vai, c'è una specie Luna Park alla fine. Cioè esci e sei fondamentalmente divertito, intrattenuto, felice. Poi naturalmente c'è anche il tentativo di far sembrare tutto questo portatore di chissà quali messaggi. C'è sempre la foglia di fico, per esempio tra i vari ambienti ce n'era uno dedicato all'emergenza abitativa nella New York degli anni 70, 80, 90. Per carità, va benissimo, purché naturalmente astutamente deideologicizzato, no, in modo appunto da eliminare proprio la politica da qualsiasi messaggio artistico, che è poi forse la più bruciante delle sconfitte, non solo per quelli che adesso hanno in mano il pallino, ma soprattutto io credo per quelli che l'ho avuto fino adesso e non sono riusciti evidentemente a coinvolgere le persone in un discorso che è rimasto sempre molto autoreferenziale. Ecco, tra i due estremi, il Museo dell'Arte Innocua, il Maxi, e la Biennale di Venezia, ormai completamente schiacciata sugli adempimenti della pedagogia etica, io spero che si possa trovare un giusto mezzo aristotelico per provare a ricostruire quello che è rimasto della scena dell'arte contemporanea mondiale.